tuoi strumenti. Oh, c'hai il tasto arancione, c'hai il tasto arancione, capito? Presa retta plus. Lungo, capito, piegato, così che e quei primi è vecchio, è un po' vecchio, però è ancora nuovo, nuovo. Ehi, no, Torino lo riconosco subito come abbassa la portante. Torino, ci sei? Però poi lo scheletro lo si era rotto perché me l'ha lasciato in terra e ne ho fatto la capsula, il circuito, non me lo ritrovo più il circuito, capito? Però la capsula ce l'ho sempre. Dunque, è il Concorde 2 e e l'altro come si chiamava preciso? No, Cirento, mi ricordo quello che aveva fatto a un altro. Il presidente. Sì, anche il presidente aveva fatto. Ma comunque c'ha un saccaccio di canali, capito? C'ha una navetta e può andare oltre, capito? Non mi ricordo più il nome, ragazzi. E quello, signor Apparecchio, era anche quello, era anziano, però è una bomba, E questo è la stessa cosa, questo mi sembra che si abbia 7 o 10 watt, mi sembra, capito? Però non ho, è sempre magazzino, capito? Non ho, è che io ti ho capito da lì, cosa ne fai? Non fai niente, capito? 23 canali, quello conviene a uno con il suo intro e basta. Anche questo qua c'è l'orologio, capito? Anche questo c'è l'orologio. Per cui, no, è come apparecchio, ma la sorte. E pezzi antichi sono, però funzionano sempre, capito? Basta toglierne uno e ti infila un altro che tu vuoi mettere un altro canale e te lo puoi mettere, capito? Più forte? No. Forse perché ero coso con la paillette, e la paillette fa di più, capito? Tecnica. Mentre il zodiaco non è che sia tanto forte, capito? Però ho visto che mi senti, vuol dire che gli arrivo anche a Muros. E tu l'hai detto, ero con Texas della Pagliette. Esce più fuori, mi sembra che c'è 6 watt, credo che sia o 7 watt, ma questo è 4 e qualcosa, capito? Se gliele mandano per metterlo a posto, capito? Oh, c'è già un mese. C'è, dice che mi telefonano loro quando se lo riparano, capito? Se arrivano le pezzi, mi telefonano loro, capito? Assicurato, capito? E poi è colpa mia perché non ho fatto l'imballo bene, capito? io infatti sull'affrontativo dovevo mettere almeno un pezzettino di polistirolo e sarebbe andato bene, invece no. E colpa mia, capite? Non è assicurato, per cui non me lo pagano. Adesso dice che stanno aspettando i pezzi e vediamo un po' se arrivano e me lo metteranno a posto. Ora da Negrini a Torino. Appena che io l'ho spinto, che l'hanno ricevuto, hanno mandato in un email subito, hanno fatto la fotografia e mi hanno telefonato subito e mi hanno detto, dice, guarda, gli mando un email, dice, a vedere un po' come è stato combinato, è tutto, che sto dicendo, hanno rovinato tutto il potenziometro che era solo sulla destra, per cui nella frequenza rimaneva confusa, capito? Ma sai cos'è, le cose su Luca, ma no, non è che mi interessa più di tanto, ho detto vabbè, appena che arrivano mi telefonate e mi tengo a posto, capito? No, non è che gli abbiamo messo le frette e niente, perché loro non ce l'abbiamo, dice, vediamo un po', dice, se li troviamo li ordiniamo e così via, capito? E se non riparo è buono, se non figlio me lo vendo a pezzi e va bene ugualmente. Tanto cosa ne fai in questa apparecchia adesso? Oh, vieni in Ira già, non ne fai niente, basta questi baracchini, un paio, boh, e basta. Eventualmente il telefono non ce l'hai tu di Antonello? Ma dove vai? Il telefono di Antonello non ce l'hai? No, ma poi se dovessi veramente a un orario interessarvi, non ci sono problemi, male che vada, ci diamo un appuntamento e vuol dire che magari mi avvicinerò io a Sassari in qualche posto e ci diamo l'appuntamento e glielo do, capito? No? Non so come lui fa. Se lui viene a Sassari e mi dice dove si trova, vado io e glielo do. Ehi, anche lì, a lui mezzo non ne ha, no? Lui in mezzo non ne ha? Beh, ci avrei il telefonino, visto che se lui viene a Sassari e mi dice mica sono dove scende il Puma, Santa Maria, dietro Santa Maria, io vado e lo trovo lì, capito? Oppure a piedi, capito? Proviamo a fare così direttamente, capito? Ma voi l'altro vi sentite molto spesso, no? Due orari vi sentite molto spesso, no? Come ieri sera, la domenica, hai capito? Non è che sempre abbastanza, come ci chiamo, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo farò io, non lo far se le interessa, ripeto, altri io, ripeto, ne ho due, non mi servo, non mi servo, la cosa ne faccio, non ne faccio niente. Poi sono nuovi, ecco, sono nuovi, non è che... ma hanno 2 mesi di vita questi qua, capito? Per cui sono nuovi nuovi e io non ne faccio niente. Poi già, sai tu, già non sai cosa, come mi chiamo io, basta guardare solo lei con il numero mio, capito? Allora, ci l'ho già, ci sono già. Ci sono. Tanti cognome lo sai, no? Fare così, capito? A me non mi costa niente, prendo la macchina e mi avvicino, capito? Così che non mi costa niente, è vicino, capito? Quando lui gli interessa basta venire a Sassari, mi telefona a dire Giovanni mica sono dove fermare il pum, ma io prendo la macchina e vado. Capita. Boh, sono i microfoni che non ne fanno più roba nuova, roba buona, no, già. Lo strumentino bruciato, infatti lo sto cercando, ma mi sembra che non se ne trovino. Allora, però ma oggi domani ci metto, se trovo quello, lo strumentino dell'MDU-5 che è preciso, e ci metto quello e c'è il microfono nella saletta, perfetto. Va bene, cambia solo il colore, perché quello di saletto originale rimane oscuro e colorato, mentre invece quello del MP5 rimane bianco con i segni rossi, capito? Però la misura è precisa e ci sta bene questi strumenti del MP5, capito? Perché gliel'ho misurato e va benissimo. Ecco perché dice, va benissimo, se non trovo uno magari prendo quello dell'MP5, senz'altro può usarlo, ce l'avrà, e ci metto quello lì. Perché io di quei tuoi strumenti qua a Fabio Marì, da qualche parte, la dovrei avere. All'altro cambia, vai, ci sono quelli più grandi, magari o più lunghi, invece questo dell'MP5 è preciso, che sia la lunghezza che della larghezza, capito? Solo questo tipo, perlomeno, magari ce ne saranno altri, ma vai a cercare adesso, capito? Vai a cercarli, per cui non mi sono preoccupato, ma poi il microfono funziona, sarebbe per lo strumentino che non funziona, però il microfono funziona perfettamente, capito? Non so, di casa e mi ha fatto il piacere di averlo sentito. Ok, già, chiudo. Ok, ciao, ci sentiamo.